Gli aumenti delle entrate, ovviamente il paese sta perdendo più, vicino a 3 punti di PIL che 2, perde reddito le famiglie italiane meno 3 e rotti per cento, i consumi sono a meno 3,6, meno 3,7, ma invece le entrate aumentano! Ed è questo il tipo di mix di finanza pubblica che ovviamente ci porta dove ci porta. Le entrate aumentano di 1 miliardo di euro al mese, e da questo punto di vista, e l'IMU e tutto il resto, c'è un commentino che ho visto da questo punto di vista, il cui titolo è "Il boom di entrate in guaia Monti", e a pagina 3 Italia Oggi, IMU e lotta all'evasione migliorano i conti e logorano il prof. Non è tanto l'importanza politica del logorio del prof che mi interessa sottolineare, quanto il mix di provvedimenti di finanza pubblica, che sono quelli grazie ai quali perdiamo più punti di prodotto della Spagna, che ha una disoccupazione più di 2,5 volte superiore alla nostra, e un terzo di PIL di bolla immobiliare da sfiammare. Eppure noi, grazie al fatto che facciamo l'80% del miglioramento triennale dei saldi di finanza pubblica grazie a più tasse, e anche qua totale continuità tra Monti e Tremonti prima, ecco che gli effetti sono questi, e non è sicuramente una bella cosa. Pillola politica: Berlusconi trovate dovunque sui giornali, che annuncia "i miei chiedono incessantemente che io rientro in campo". Il giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che è sempre ai domiciliari, e un abbraccio va a lui, non per quel articolo per cui è stato condannato, ma perché la mia opinione è che è senza senso stare carcerato o ai domiciliari per cose di questo genere. Titola "Berlusconi torna in campo. La decisione del Cavaliere, la situazione economica, dice Berlusconi, è più grave di quanto avevo lasciato, ben più grave di quando ho lasciato. In molti chiedono di ricandidarmi. E sfida Monti e i colonnelli del PDL", sto sempre leggendo dal giornale, "accorpare il voto politico e amministrativo o togliamo la fiducia". Per una volta credo che la cosa migliore sia rispondere con un'intervista che ho trovato al generale Speciale. Ve lo ricordate Speciale, l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, proveniente dall'esercito, che poi ebbe dei guai perché usava un aereo della finanza per portargli i pesci, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un'intervista oggi nel quale annuncia che non si ricandida, che non gli interessa ricandidarsi, e dice di Berlusconi avrebbe dovuto capire quando il tempo è finito, è chiuso. Ecco, nelle parole del generale Speciale secondo me c'è il senso preciso: un centrodestra che non è stato capace in un anno e mezzo di mettere in campo alcuna iniziativa di discontinuità, e chi si riduce a dire "Berlusconi torna in campo", è un centrodestra che è il primo vero grande responsabile del fatto che Berlusconi e la patrimoniale sono oggi la vera già pronta alternativa. Quando dico già pronta, leggiamo che Bersani va già in missione di Stato praticamente in Libia, Bersani va da Mario Draghi, eccetera eccetera, l'accreditamento è in corso, e quindi da questo punto di vista eccoci qua.